sono le immagini che sono scioccanti, le immagini rappresentano la realtà che descrivono, quindi adesso basta, si dice che è scioccante un'immagine e non si guarda più la realtà. Ma è chiaro che c'è sempre qualcuno che è contrario, ma io direi che il problema non è questo da discutere se qualcuno è contrario. Io non sono qui per cercare il consenso di tutti, anzi, qui il problema è che esiste una condizione umana femminile che è spinta dai media, è spinta dalla moda, è spinta da tutti quelli che dicono che le donne devono essere magre per essere belle. Infatti fra di loro si fanno i complimenti: ah, ma come sei dimagrita! È incredibile, cioè è assurdo, è diventata ridicola questa situazione.